Il punto di Stefano Folli. La riforma elettorale sta per arrivare traballante al vita, almeno alla Camera, ma lascia parecchie macerie lungo il percorso. L'affossamento della parità uomo-donna è il dato che più colpisce, certo, ma in fondo il rimedio c'è. Ogni partito, se vuole, è libero di attuare la parità nella scelta dei suoi candidati, stabilendo anche, mancando le preferenze, chi dovrà essere eletto. Decideranno poi gli elettori a chi dare fiducia, se ai gruppi che hanno introdotto le quote rosa o agli altri. Tuttavia il problema politico è il ritorno in grande stile dei franchi tiratore. Un fenomeno limitato alla questione uomo-donna o l'annuncio di una guerriglia parlamentare che non si fermerà? Difficile dirlo al momento. Sappiamo però che Renzi è stato freddo sulla parità, lasciando all'aula parlamentare di sbrogliare la matassa. Le sue priorità sono le misure economiche, misure che contengono una sfida implicita ai sindacati, in particolare alla CGIL e in fondo al vecchio partito, il PD, al quale il suo stesso leader non fa sconti. Ecco allora che i malumori di queste ore non vanno sottovalutati.